con la coautrice, attrice Alessandra D'Ambrosio, per parlare del suo spettacolo Scarti di Paradiso a Roma al Brancaccino dal 21 al 24 febbraio. Ben trovata. Grazie, ben trovato a te. Lo descrivi brevemente a chi ci ascolta? Sì, allora, Scarti di Paradiso. Gli Scarti di Paradiso, brevemente, sono un po' le persone, abbiamo descritto un po' le persone stigmatizzate un po' dalla società. In questo caso la protagonista è Privilegio, questa donna che è vissuta in un bordello di inizio Novecento con la mamma, la nonna, e racconta la sua storia dal manicomio in cui è stata reclusa, racconta sia la sua storia di vita del bordello che tutto quello che accade all'interno del manicomio. Questo è proprio... Come è nato tutto? Un po' per la necessità di raccontare quello, chiaramente approfittando del quarantennale della legge Basaglia, che è stato appunto il 2018, no? Un po' raccontare quella che era la realtà all'interno dei manicomi. Perché? Perché chiaramente non erano recluse soltanto le persone con patologie, ma erano recluse anche delle persone semplicemente che la società non riconosceva, come potevano essere delle ragazzine ribelli, e quindi è stato fatto anche uno studio sulle cartelle cliniche, quindi quello che viene descritto anche come sintomi che arrivavano a una diagnosi fortissima e poi a dei trattamenti ancora più forti, sono reali, cioè sono riprese a cartelle cliniche reali, quindi tutto quello che è raccontato rispetto al manicomio, ai trattamenti, alle diagnosi, è tutto reale, quindi anche l'esigenza di voler raccontare questo, e chiaramente poi contornato da una storia anche un po' fantastica, insomma, non reale, che è quella del personaggio di Privilegio. Ecco, proprio a questo proposito, come avete deciso di strutturare lo spettacolo? Praticamente lo spettacolo, dalla scenografia è evidente che ci troviamo in una situazione asettica, quindi pareti, semplicemente due pareti di mattonelle, che sono diciamo lo studio dello psichiatra con cui Privilegio parla, e c'è una voce fuori campo che è quella del regista che ha preso imparato, che è lo psichiatra che fa queste domande e che danno spunto a lei per poter raccontare la sua vita, che viene poi rappresentata anche con delle immagini, delle musiche chiaramente accompagnata, all'interno di un oblò che si trova nella parete di fondo, dove scorreranno tutte queste immagini del bordello, per lei anche paradossalmente nostalgiche, perché lei è cresciuta lì, quindi anche se la situazione sembra non adatta a una ragazzina, ma per lei comunque nostalgici sono dei momenti comunque belli che lei racconta. Quindi c'è tutto questo ricordo e poi c'è la durezza della reclusione. E poi c'è un finale, diciamo, particolare, perché tutta la sua vita, la vita che ha vissuto, un testamento molto forte della madre, un testamento morale molto forte, però la porta, tutto quello che ha vissuto all'interno del manicomio, la porta ad agire una violenza che lei mai avrebbe pensato di poter agire. Su quali elementi avete voluto porre l'accento in questa vicenda? Guarda, ti dico, il lavoro con il regista è stato fatto molto sulla verità delle emozioni, quindi abbiamo cercato di non rappresentare a livello, sai, stereotipato il manicomio, la persona rinchiusa nel manicomio, ma abbiamo lavorato molto, moltissimo sulla verità, quindi sulle emozioni reali. E questo forse speriamo, insomma, ieri è stato così, speriamo che questo così che arrivi poi al pubblico, perché poi è l'emozione che in questo caso sono tutte emozioni molto forti, e quindi miriamo a quello, cioè a far arrivare le emozioni. Che percorso sta facendo lo spettacolo? Adesso abbiamo debuttato ieri al Brancaccino, siamo fino a domenica, poi saremo dal 26 al 28 al Teatro Sanità, al 28 aprile al Teatro Sanità a Napoli, e poi ci saranno chiaramente è uno spettacolo un po' di nicchia, per cui ci sono dei festival e delle situazioni, probabilmente l'OPG di Napoli, quindi delle situazioni comunque particolari in cui verrà rappresentato, cioè comunque ex ospedali psichiatrici, insomma, di questo tipo. A questo proposito, per seguirlo ci lasci tutti i riferimenti web? Sì, questo momento io ho pubblicato sulla mia pagina Facebook e anche su Instagram c'è una piccola recensione che è stata fatta ieri, e sulla mia pagina Facebook chiaramente la aggiornerò, e ci sono poi varie, cioè viene pubblicizzato comunque continuamente lì. E allora ricordiamo l'appuntamento a Roma con lo spettacolo Scarti di Paradiso. Dal 21 al 24 febbraio al Teatro Brancaccino. Un saluto e un ringraziamento alla coautrice e attrice Alessandra D'Ambrosio. Un abbraccio in bocca al lupo e ci si vede a teatro. Grazie a te, buona giornata.